entra. A dove ce n'è una qui, in via Mercato, adiacente, 60.000 euro. Cazzo, si vede i muri, mi so fare in terra, beh, e l'umidità vi cave tra il brumubiao. Sì, io lo so già. Quando avevo visto voi, la stavo prendendo, mi pare, 20.000 euro a casa, 20 metri quadri. Capito? Poi anche umida, figurati tu. Allora gli ho detto, ti racconto, vai con la casa. Se tu scondi la cantina, se ci metti una piantagione di carapondiana, sotto, gli ho detto, almeno ti fai i soldi, ti fai così. E allora, che se gentini vi buoni la guida, specialmente quell'ultima che avevo restaurato io, fino a restaurare a cominciare l'inverno, andavi lì, e l'aveva a metà, la piscina. Che umida quella zona, ma è umida forse, capito? Non c'è solo basamento, non c'è nulla, sono fatto mezzo la roccia, capito? C'era anche pisciatore addirittura sotto, perché prima si usava ai tempi antichi di fare un buco in mezzo alla roccia, pisciavi e cavi lì, e basta, poi quando veniva l'acqua, con la zona si buttava via, casa, cantina, tutto si buttava. Se parli di fare, con la birra, ho passato di cu, se così errore male, buio saldato, buona sera. Così cazzo era un cappello, era lì. Controllato, era salire. Non mi pareva di più, salire. Mi sono con bugie d'inganna, ma tu devi vedere questa cantina tu. Era una piscina, una bassa, perché avevo fatto tutto l'intonaco a spruzzo, no? Imbiancata a cazzina, l'intonaco vata a cazzina, la pesce, e il pavimento era bianco. Tu devi vedere quella cosa, una piscina, ci potevi mettere le anguille lì dentro, le carpe, e fare un polvaio. Che è tutto da regolare se centro storico, se guardi bene, tutto. Tu guarda Santa Maria, dove è vicino alla banca, dove hanno fatto anche il conto Santa Maria, tutto vino dei banchieri. Oh, già so, già, non hai visto lì all'incrocio a Santa Maria, la Santa Maddalena e Santa Martina, 9 anni che è rifatto in esempio la faccia, dove si torna i crucini. Che è tutto umido, non si vuole niente per le case. Quando farebbero la radio del suolo, costruite tutto da capo, con cose in cemento armato. Se il cadere a comandare cosa abbia fatto? Abbia lavato la chiesa, lì, la scuola di San Donato. Tutto questo si aveva fatto tra le ruspe, non aveva lampato tutto, ma non erano i barattoli che vicini nel centro sud. Lo so già, e sono tutti costruiti tutti male pure me. Tutta pietra, fango e pietra. E avanti. Cielo. Buonasera Massimiliano. Oh. Avanti Graziano. Ciao Massimiliano, ben sentito. Buona Pasqua. Avanti a tutti. Ok Antonio, per Paolo, ciao Massimiliano. E buonasera a tutti, dai, buona, tanti auguri di buona Pasqua per tutti. Ma poi positivo, dai. E c'è un abbassamento anche oggi, Massimiliano, ti sento piccolo. Guarda, se mi senti, per Paolo, io fra un po' sto salendo con Gavino, a casa di Gavino. Se non ti crea problema, passo per quell'affare. Passa, passo, che problema. Limite, quando sono sotto casa tua ti mando un messaggio. Capo è positivo, dai. Allora aspetta, te lo preparo. Pagava. Ma cosa faccio? Che vuoi lui mi prendo? Cosa ti prendi? Anche vuoi lui? Ah, Emmy. Bravo che me l'hai ricordato. Allora ti prendi anche lui, sì, sì. Pagava. Dai, per fa, quando... Adesso non so se lo prendo, quando sto salendo o quando sto tornando alla casa di Alvino. Capa, non c'è problema, adesso te ne cosa esce, ma non adesso, anche dopo, tra un po'. ti sento Massimiliano, mi sembra di sì, più bene lo sì. No, io lo sento del radio appena appena, ma proprio quasi incomprensibile. Papà, più oddio lo sento io, però se parla piano già lo occupo bene cosa sta dicendo. Sì, ma c'è un altro che voleva entrare, avanti, chi è? Ciao Giovanni, buonasera. Massimiliano. Ah, vabbè, allora com'è? Tanti auguri. Adesso non ti sento bene. Tanti auguri anche a te a famiglia. Siamo attentino e stiamo preparando una cosa. Va bene, va bene. Graziano, senti adesso. Papa di Reggio, adesso ti sento meglio. Benemeda. E allora senti Antonello Pompugno. Senti, lui tu lo senti? Sì, te l'ascolto adesso. Ciao, io vi saluto lì. Pompendi, sì. Da Santiago 5 a Santiago 7 e mezzo adesso. Ciao, Antonio. Qua è già partito al muro anche. Stiamo provando l'apparecchietto che mi è venduto. Mi approfitto di buttare tutta quanta la volta, ciao, saluto. Ma neanche saluto, ti sento zitto, sento chiaro chiaro. Salutone, Carburo, tutti i cazzo, siete tutti quanti assieme. Cappasa, avanti, grazie. Cappa, salutone, cambiate al centro, buona Pasqua. Ripia, Massimiliano. Si è assentato, riprendi Antone. Ehi, troppi rommi. Buonasera, ben sentito, drommi drommi, avanti che sei bisatto. Ti so cudrio una cucenni di cosa mi si chiede, ho cudrio una cucenni di nome, più di un'ora sono. Ma c'è da sopra, pareti, e sei di certi chili. Dai, dai, mi sono cambiato un film mio. Buon proseguimento, buonasera a tutti, auguroni, Papa di Reggio, e chi c'è in ruota allora se sei un'ora ascoltando? Per Pomponio, per Giuseppe, Gasubina, per Vera, per Massimiliano, Gasubina, aspetta. Per di tutti, no, ci mantieni i canali altri e però vince in via, capito? Cara gara, che film ti sei mai tenni? Ehi, la sette è una specie di tutti gli animali, in Africa, tutti animali sono, e mi che mi sono capito più figli. Dai, la buon procedimento, scusate se faccio il chiumato, Negativo, lo ci ha disturbato, ripiglia a te, ok. Dovrebbe essere assentato, Yugi. Sono Carburo. Sono Carburo. Canguro sì. Antonella, lo senti a Canguro. Ecco un attimo, ci stiamo un po'. Baba Gaba, e in che punto sei a Trentino, Canguro? Così come sono le previsioni, domani c'è un sole nuvoloso, sarà meglio di oggi. Ma domani dovrò vedere qualche cosa di vivo, anche se va entrare fuori, però qualche giro di gomone ce lo possiamo fare nel peso, vai. Vabbè, sotto corsa, senza lontanarsi, perché quando lo dici il tempo è sempre l'ompio. E allora, già fa bene il movimento ai giovani, anche io qui sono seduto nel gommone, faccio da un gommone all'altro. di là forse però mi non si bucchia lo commore però me cara chi su che è al sentino grazie canguro occhio e un po' faccio ma glielo sento canguro mi senti sì tu mi senti buonasera ben sentito e auguroni come arrivo lì faccio un passaggio ok 1 2 3 prova avanti segnale 5 radio 4 5 va benissimo allora tranquillo va bene grazie ripigliatela cara canguro io come ti arrivo lì radio passaggio 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Rotezzo, segnale 5, radio 4, 5. Andate, perché con Gio Mariano siamo distanti, siamo vicini, là. Dunque, come segnale dovrebbe essere uguale, quasi, là. Sì, segnale preciso. Cappa, cappa, ma pescate domani, se fa bel tempo. Beh, l'intenzione è quella. Vi auguro di prenderle, che è mare buono lì a Trentino per la pesca. Non so però da come stare forte per domani, quindi bisogna vedere tutto. Guarda che l'anno scorso lì a Trentino in quelle acque c'erano gli squali, che hanno abboccato lo squalo. Vabbè, lo facciamo a tracci, che non dovrebbe essere cattivo lo squalo, bravo. Non è cattivo, lo stavano vendendo per pesce e spada, l'altro giorno l'ho fatto vedere a Striscia la notizia, lo squalo lo spacciavano per pesce e spada al mercato. E allora, c'era la finanza, stava facendo vedere il pezzo dello squalo e il pezzo del pesce spada, sono quasi simili, cambia solo l'osso che c'ha al centro, è differente il sagoma, e da lì si conosce anche la carne, quella là rimane più chiara, più rosa, e quella del pesce spada più chiara. Andato a mangiarsi rubecco, un bacchio fa via rubecco asciutto. Antonello, lascia stare la birra, no che sono stato inumidendo poco fa con la birra. Carburo, mi scoppi a sentino, forchetto. Pappa, forte e chiaro. Pappa, Carburo, buona Pasqua. Buona Pasqua anche a te, forchetto. Pappa, De Rogero, a te tutto il guerriero familiare. Pappa, te ne raccogli. Ciao. Dei presi della Grazia. Antonello, rientrato, sì. E fondendo il becco. Beh, era qui ed è sparito. No, che il becco se lo stava bagnando poco fa. La gappa, la che c'è fra questa, anche Gio Maria? Ehi, saluto di Gio Maria, ben sentito allora, auguroni anche a te di buona Pasqua, a te quella familiare, cambio. Parchetto, auguroni anche a te, in famiglia. Ben sentito. Avanti l'altro. Guardi che ha detto buonasera Parchetto. Dovrebbe essere Alfa 1, Natalino, se ci si batte un colpo. qualche... Papa. Come c'è il centurazione in realtà? A chi fa il microfono in fondo al rito e non riesce a cattarlo? Ah, a me mi pare perso in mezzo ai piedi il microfono. Uia! Grazie che lo trovi, mi. Ah, saluto me, che il tracco da rinunci. Ai notti era il Brunei, il Pompeo era i russi. Ehi, mi compro questa villa, 500.000 euro, due piscine, andare, veranda circostante tutta la villa, e cosa vuoi di più? Pianeggiante, te qua, Don Alghero. Già da me, figlia, la vuoi vitti a noi pure lì? Un attimo di bianco per Carburo. Papa Carburo, abbiamo copiato un attimo di bianco, va bene. Ma Carburo o Canguro? Carburo. Cazzola, prima la chiamate, lo so io, la buca, Canguro, invece è Carburo. Gappa. Ah, c'è anche io invece, oh grazie, sono in tre, sono i bari. Oh, ben entrato Gianni Capri 2, ci avevamo, guarda, nel pensiero io e Giuseppe, Gappa, ben entrato, auguri a te e QRA familiare, buona Pasqua, Allora non ti sei sbagliato poco fa, perché quando hai detto che ti sembrava lui. Gappa, Gianni, vieni avanti con la buonasera. Sì, che l'ha detto, non è che... è Giuseppe che mi sembra che abbia sentito, io mi stavo ascoltando, grazie, per un po'. È Giuseppe che ha detto che sembrava la voce sua di Gianni, capito? E dopo ha detto Falchetto, ha chiamato Falchetto, così è qualche. Positivo. Vedo un po', grazie. A poco mi stavo ascoltando. Ehi, che è vero, Ecco, c'è Giuseppe che prendeva la macchina, A pagata, Gianni Capri 2. Ehi, ma forse di su, ma dai, non entra per quello, dai. Se non entra vuol dire che se qualche cosa non va, lasciamo stare allora, dai. Gappa. Quindi grazie. Ci stavo buttando la cicca. Caragava. E allora Gianmarie, ma cos'è il documentario quello che stavi guardando? Gappa che ti ascolto. Vieni avanti Gianni. Non riesci nemmeno a parlare. Senta, con la parlantina che c'hai tu, oggi ti sento un po' strano proprio, comunque ben sentito e auguro a te in famiglia. Ok Gianni, bene, c'è anche Bombolo, che salutiamo anche a Bombolo, buonasera anche a lui e auguro anche a lui, avanti Bombolo. Capo, buonasera. Buonasera Zio Maria. Volevo sapere una cosa, se c'era Massimiliano. Massimiliano, ci sei? Massimiliano era sul canale 1 con tuo padre. Un attimino, chiappa chiappa. Allora, come va? Sono un pochettino attuntunato perché ero mezzo addormentato perché ero molto stanco. Ok, ma hai fatto bene, ci sei riposato, adesso ti svegli, ma per la rinfrascata ti metti a riso subito. Bene, riprendi la fia e mi assento 5 minuti, dai, dopo rientro con un break, vai. Papa, ok, vabbè, io approfitto a salutare tutta la ruota circolare, se devo fare cosa al limite, se finisco. Oh, riprendo, se no ce la sentiamo alle prossime. Riprenditela tu, parte. Cappa, buon QRT, allora dai, se coincide a dopo, se riprende, se no tutte le prossime. Ti rinnovo i saluti a te, QRA familiare, dai, grazie, non c'è problema, già siamo qua in frequenza. E rilascio il mic a Gianni Capri 2, dai, vai avanti Gianni. Scusa un attimo Gianni, chi è che chiama Parchetto? Avanti, chi chiama Parchetto? Dalle come negativo copiarti, sei piccino. Avanti, io ti rilancio di nuovo, avanti. Niente, negativo copiarti. Bombolo, niente. Ti dai saluti Gianni Capri 2, riprendi Bombolo. No. Non lo sentono o qualche, comunque gli mando i saluti, non so se lui senta me, comunque gli mando i saluti da parte mia, dai. Ah Gianni, è copiata Bombolo? Io lo ascolto, negativo è proprio, hai capito, prego? C'è stato il prego, cappa. Riprendi, vieni avanti il break, dai. Mattami un altro uno, buonasera. Ciao Capri 2, buona Pasqua. Sono degli intrusi e cose non se ne bene tratto. E quanti si sentono che stanno chiacchierando più o meno. Ma è bene, ragazzi, sempre dopo il 25 sei Natali, va benissimo la radio, una cannonata. Che microfono stai usando? Sempre sollecito, Sì, l'MV4 con il presidente Lincoln, sono collegato, ce l'ho nella sedia qua, ho messo una prolunga e sto usando il presidente Lincoln con l'MV4. Va benissimo quel microfono, vai, va benissimo, ottima radio. Bene, Gianni, a te vai. Sente bene, dai. Non è male. Ti stavo intendo una capsula da 1200, che di un videoregistratore. Yeah. Ah, fa piacere. Attenzione, qui prende Franco. Stanno chiamando, dai, Franco per me. Falchetto, avanti, fai chiamata di nuovo qua a Gianni, si è ripreso, va. No, c'è stato un altro modulante, Branco, se ho copiato bene, avanti Branco. Branco, è entrato un attimo a salutarvi e farmi semplicemente gli auguri. Ditemi se c'è Roberto Quadrato. E comunque tanti auguri per buona Pasqua e a Nobile Sano. Ehi, a Branco, dai, tanti auguri a voi a te e a Nobile Sano, so, in compagnia di Natalino Alfa 1, Gian Maria, Gianni Capri 2 e il sottoscritto Falchetto, dai, avanti, Antonio Pomolo, se riesce a copiarlo, avanti per chi vuoi, Branco. Branco, sì. Sì, un attimo, no, a me, un attimino, perché c'ho anche, scusa, c'ho acceso il 144, stavo modulando sull'inchinazionale, ho detto, mi stavo confondendo, da dove sta venendo sta voce, e io capano, e ditemi se mi state copiando bene, datemi magari i controlli, no? E poi faccio VRT, naturalmente, perché c'ho un sacco di roba da fare. Bene, mi danno, so chi tocca il microfono, e comunque salutoni. Branco, buonasera comunque a tutti, vi sto ascoltando. Ciao Branco, Roberto, come sta a fare? Continuate, sono al computer. Ciao Roberto, ciao. E a tutti, ripetetevi tutti, salutate tutti gli auguri di Pasqua, di buona Pasqua per tutti, dai, sto facendo cosa al computer, entro tra un po', dai. Ciao a tutti, dai, proseguite, vi sto ascoltando. Natalì, sì. Gianni, non stai uscendo, Capri 2, non stai uscendo quel microfono, Adesso questo passaggio sì, dai, provo a fare il passaggio più lungo. Vuol dire che io lo copio sul fondo questo, non so chi sia, Questo, Franco, è Capri 2 da Muros. Ho capito. E riprendo io, Franco, dai, chiudo momentaneamente, dai, per cui vi saluto tutti cordialmente. Buonasera all'ultimo entrato, non ho capito il nome, comunque Gio Maria chiude e richiede tutto a Pacchetto. Vai Pacchetto, riprendi tu, dai, chiudo, buonasera a tutti. Cappa, dai, Gio Maria, buonasera, buon tutto, dai, buon proseguimento di serata. Avanti Branco per Gio Maria. No, Gio Maria, ma comunque diciamo. Il più forte che ricevo sei tu, è l'ultimo praticamente che ha modulato, per cui è nominativo. Gli altri ricevo bene lo stesso, alcuni come quell'amico di Murro, addirittura sul fondo, ma se ci fosse stato quel REM non avrei copiato. Molto bene, se non mi sbaglio l'ultimo che ha modulato con me, Falchetto, mi sto sbagliando. No, positivo, io come ti arrivo nelle tue coordinate? Ero il più forte di tutti, ma magari siamo vicini, dove sei? Io sono zona di Porto, dove vai? Vabbè, io sono zona stadio, poco più avanti, verso le piscine. Bene, la continuate, perché devo chiudere perché devo fare valigie tra la notte. Bene, rinnovo gli auguri di Pasqua a tutti gli amici CB e vi auguro, soprattutto a Roberto anche, di diventare il più presto possibile un OM, perché diciamo è anche preparato bene. Speriamo la prossima volta che ce la faccia. Ok, bene mena, arrivederci e grazie per avermi fatto entrare. Ciao. Ciao Marco, Natalino Alfa 1, buonasera, buona Pasqua, là. Ero impegnato al telefono poco fa, non potevo rispondere. Ciao carissimo Giovanni, alle prossime. Ciao. Anche da parte mia Giovanni lo stesso, dai, continuate, dai, che non posso seguirlo. Ciao Giovanni, buon tutto, dai, buon proseguire serata e buon tutto. Tutte le migliori se coincide, ciao. Un attimo, non è? Oh, dimmi Natali. Guarda il segnale, se è variato, che ho sostituito l'antenna. Non so se sia... Ma ti ha messo l'antenna nuova già, per te. E via. Boh. Natali, secondo me è appena appena più basso rispetto al normale, ma parità di potenza delle solite volte, sì. No, ho presente lì con Sam, che ho messo uno spezzone, c'è uno vicino alla sedia, sono quelli cappella. Era più o meno già quello il segnale tuo, bisogna averti con l'altro, con quello più grande, vediamo un po', dai. Ok, infatti da vicino non è che si noti molto, eh. Ma già si nota in lontananza. Vabbè, dai, quando accendo l'altro, che ci sia anche tu, faremo vero e proprio, ok? Sì, Gianni, stai uscendo, vai, meglio dell'altro, vai. Yeah, gabba gabba. Ma qualcuno è pompugno. Gabba gabba. E la gara la mattina. Allora è lunedì, oh yeah. Che schifo, grazie. Furati, cosa ha fatto volato? Tu ci hai volato, boh, non vuoi, non ti basta più. Ehi, cazzo, io sono un'ora, ma è giusto, cazzo. Ti sei 4 mesi che ho partito, sono volati. Allora sono di volati. Vabbè, diciamo, è l'impegno tuo, il confronto al mio, è molto, molto più pesante, ecco perché non ti passa l'ora, capito? Mi sembra una pista. Fai, zitto, va, ma non fai i suoi forzi mio. Ecco quello non ti passa di nuovo, buttando un minuto, cazzo di dieci, so. Butta una mano e cazzo di un quarto, so. Due e venti, due e mezzo, non ti passa più. Arrivo. scusa, buonasera, ben sentito, non ho capito il passaggio, chi sei, avanti, ripeti. Ok, Tore, ok, mi hai sentito, buona Pasqua anche a te, anche se è un po' in ritardo, vai. Ok, avanti, vabbè, tu sicuramente lo sentirai meglio di me, vai. No, la radio è brutta, non mi piace. Comunque buonasera a Tore, ci siamo sentiti anche l'altra volta ed è un po' meglio l'altro giorno quando ci siamo sentiti. Sì, la radio è molto, sembra cattura, distorta, dai, non stai andando bene il radio, il segnale circa roba, però la radio è scarsa, scadente. Roberto, ma c'era quelli che stava parlando Tore, la radio, ripeti Tore. Adesso sei proprio sul fondo la radio, sei troppo basso, però c'è qualche problema di qualcos'altro, non lo so. Prova un po' il mic se è tutto in ordine, non lo so. No, non è questione di potenza, è proprio il mic che non sta rendendo. Guarda l'impedenza se c'è qualcosa di sbilanciato, buh. Però se basso basso, scusate ma tagli che prova in FM, l'amico, così vediamo. Oh, sembri quando sei senza massa in un microfono, si sente appena appena in sottofondo la radio. La radio è chiara, ti riesco a capire quello che dici meglio di prima in AM, però non va bene, come non stia uscendo di radio. Niente, niente, c'è qualcosa, come che si è strozzata la modulazione, il segnale è forte, 9 più 30, però il coso non ne hai, di radio niente, non sta spingendo. Qua è 9 e 30, Tore, mi senti? Sì, sento di sì. 3K, sempre lunga, aspetta un attimo, sono troppo alto. Ok, bene, come, compressa, è importante. Vabbè, mi senti? Mi sta parlando sotto. Chi è avanti? Ah, ero io. Vabbè. Tu sei la casa? Ehi, ah. Ma 60, per dove al BB mi arriva Natalino? Ma al fondo scala. Proprio sbatte lo Smith. E tu, anche se ti attendo, sei sempre quasi a fondo scala. Dove c'è la più Luca? E io, vabbè. Prova tu, fai. 1, 2, 3, 4. Anche tu attenuato sei sulla W, fondo scala. Qua 9,60 palchetto. Natalina 9,60, lo stesso. Oltre 9,60. Ciao BB. Tu quanto sono? Tu sei sulla W. Aspetta, c'era qualcuno sotto piccolino. Avanti, chi è che vuole entrare? Capri, tu sei. Problema. funziona l'acquario, così quando sono pronti te li do. Una latte di Boibunino, bel problema, però ci vogliono 10 giorni per andare all'acquario, là. Ciao, tormentatore di pesci. 4. Oh, yeah. Ha aumentato le difficoltà, ci ha amato a te. No, adesso per quello vengo io e lo alzo in alto, così impara. Oh, yeah. Adesso vengo lì e mi porto via Manuela, me la porto via, così impari. Ma guarda c'è lo specchio d'Artagnana e poi mia sorella è andata al nero. E allora mi porto via Gianni e Liliana, così impari, ti lascio da solo. Papà e mamma, adesso sono in Napoli, noi siamo in Napoli, stiamo partendo per l'America. Non ci credo. No, vedi immaginati che messina, la scena è. Mica stavo scherzando per Marco. Michele, lo so, neanche noi siamo andati in America. Va bene, riprendi Giuseppe, era una parente. Ma poi quella la basta, ciao. Fare il positivo, ciao Marcolino. Un abbraccio anche da parte di Giuseppe, buona Pasqua anche a te, Masciottone. Sì, riprendo io e ripasso subito la palla a Roberto. Roberto, dimmi se ti piace la radio di Natalino. No, la devo spingere bene, è bella potente, niente da dire. A parte il solito discorso dell'eco, per il resto va tutto bene. Gira perché? Sì, avanti. Sì, Santiago Novi, sì. Però c'è quello un rumorino che sta portando appresso. Sono le batterie, quando fa quel rumorino sono le batterie, mi stai attento. C'è Luca a riposo e Falchetto, avanti Luca e poi per Falchetto, ma non c'è avanti Falchetto. C'è stata una chiamata indirizzata al mio nome, ma non ho copiato chi fosse, un po' basso, avanti chi chiamava Falchetto, scusate la ruota, negativa, riprendi Roberto e fai girare. Quando ti arrivava Bracco a te Falchetto? Beh, a me mi arrivava 9. Solo? Che è inspiegabile, guarda tu c'hai con l'antenna, è inspiegabile l'antenna tua, a me mi arrivi a 9,50 tipo Pompugno, un po' di meno, forse un po' di più di Pompugno, e a te ti arriva a 9, poi altri segnali che per me sono più deboli, a te ti arrivano più furti, tipo quando se ne va a coso e domenica, non riesco a capire quello lì, questa antenna deve essere molto direttiva in certe situazioni, in certe direzioni e per altre è un po' negativa, boh, che strano. Ma no, sarà un mio difetto, cioè difetto delle aperture, dai, più o meno. Io ho notato che ho fatto un controllo con Giuseppe Tornado e addirittura lì a Plattamona lo copiamo fino a un certo punto, come mi copiavano fino a un certo punto, poi non mi riusciva più a copiare, capito? Io in quella zona lì sono chiuso, vabbè. Vabbè, cosa ti volevo dire? Adesso te lo dico io perché il falchetto è così, perché è tutta barretosta quell'antenna, non è come si deve, e poi vuole più alta pure. Sì, sicuramente è un'antenna, però lui, per dire, Capri, quanto ascolti Capri, per curiosità? Io? E tu, Fabio? Tiago 5. E io com'è l'ascolto 9 più 10, Natalia, che lui ce l'ha di fronte. Per dire, Domenico l'ascolta molto più forte in quella direzione di lì, lo tira fuori, forse è quello che lo tira meglio di tutti qua a Sassari, per adesso diciamo. E quello l'ascolta meglio. Falchetto, come si chiama? Capri a me mi arriva 9 più 10, anche qualcosina di più in certi momenti. A me qua mi arriva 7, quindi mi arriva più forte di come arriva Falchetto. Capito? Cosa vuoi ti dica io? Ma è cosa, perché è storta quell'antenna, non è dritta, capito? Gliel'ho detto di addrizzarla e di mettere un palo più alto, oppure perché è anche troppo. molto bassa e non sta irradiando come deve irradiare. Ma come l'hai tolta? Tu che sei, non sei mulatto, non ce l'hai, ce l'abbiamo, non si conosce dalle parti tue. Okay. Non è quello, io l'ho attaccata dove c'era la parabolica, non te l'avevo spiegato l'altra volta. L'ho attaccata lì alla parabolica e c'è la pipetta è storta, capito? È fatta così dalla casa. Adesso con la pipetta la stacco e l'attacco direttamente alla, al cornicione del muro, diciamo, e la salgo a piombo, capito? La salgo addirittura, la lascio 3 metri, dai, se 2 metri la salgo un altro metro e mezzo. Dai. E vediamo un po', poi farò le prove e vediamo un po' come va. È un peccato, dai, perché l'antenna deve irradiare in tutte le direzioni, no? In certe direzioni benissimo, in altre è molto male. Ok, allora, c'è Gianni, subito riprendi e poi fai girare per le altre. Comunque fa anche se vuoi un consiglio, alza almeno 5 metri, 3 metri è troppo poco. Mette troppo un poco, almeno 5 alzala e così non la stai più a toccare. Ehi, a Capri 2, buonasera e tanti auguri a te e quella famiglia. Te ne ho di quelli avvannutimi già. Oh. Ehi, Capri 2 mi stava dicendo dell'acquario, gli ho detto bisogna che andiamo noi prima, glielo prepariamo e poi lo lasciamo 10 giorni andando, poi quei 3 avvannuti glieli do io. Sì, ma basta mettere una coppia di bistis, oppure che dura gravida, si fa, no? Sì, vabbè, ma glieli do io, gliela do io, ce l'ho, capito? Ce l'ho già in cinta qua, ne ho 3. Come te chiedi tu? Avanti, Capri 2. Poco fa mi arrivava a Santiago 7. Lascia troppo parlare, stavi dicendo Capri? Ti ripeti che eri in bacino di radio? Uscendo proprio impercettibile, il segnale c'è Santiago 8 o 9, però radio 0. Ma la batteria al microfono sicuramente, sente un oggi con il QRM non c'è neanche un po', ce l'ho a 0, oggi è proprio una giornata speciale per i disturbi. Aspetta un attimino, sta chiamando qualcuno sotto, chi è avanti? Santiago 9 adesso va tutto bene, aspetta che ce n'è uno sotto nel fondo, chi è avanti, chi chiama? Chi è avanti? Non abbiamo capito, dai. Ok, riprendete la carta. Vai, Natale, ma la carta di K sta usando. Perché si vede? E sono per basso. Ah, lo vediamo così, non c'è problema. Perché si vede? No, non fatto la segnale, la radio è bellissimo. E K, già lo so. Poi facciamo una chiamata che ha sentito Roberto, mi sembra. Attenzione, chi chiama sul canale 5 avanti. Se stai parlando non capisco, dai, poco fa. Riprendi, sarà Gianni. Io ho fatto un passaggio, ho fatto gli auguri a Capri, sto aspettando ancora la risposta. Buonasera. Vabbè. Giuseppe, sì Gianni, e 2 minuti che mi ha chiamato Veronica, arrivo subito. Va bene, è rimasto il parcheggio. C'è Falchetto. Ah, è giusto, Falchetto, riprendo. Ia, ia, ia. Cappa di roccia, cioè, il Capri 2 invece sta manovrando con gli apparati, è tutto manovrare, per farli girare un po' tutti, dai. E va bene, dai. Ok, lascia il mic a Natalina, avanti Natalina. Ehi, cappa, riaia, andrà bene mena. Uff, che è pittina. Ho piazzato anche con la multibanda, vabbè. Beh, dimmi, raccontami, dopo l'hai messa, come ti ho detto io, hai fatto quella specie di lavoro o come? E sotto la trappola, sotto la mantova. Ma con cosa hai fatto? Utilizzando quei pali a U? No, l'ho messa con una trappa che ho fatto io. Vabbè, riesci a radiare? Ehi, non l'ho provata ancora. No, ma è bella, la vita è fatta bene. Ma come sei passato da me? Se no ti bidiamo l'antenna che non si vede nulla. Beh, io non lo sapevo com'era quella lì che avevi tu. Ho comunque hai fatto un affare mio, io mi sembrava pagata 60 euro quante, aggiunto una cinquantina di euro, quella costava una barca di soldi ed era un'antenna eccezionale come costruzione. Infatti l'hai sentito, non è neanche più in produzione ed è l'ultima che è rimasta, perché quella è una bellissima antenna. E te credo. Tutta inox, l'hai visto, non c'è un pezzo in coso, in niente, materiali scadenti. E l'altra è presso fusione d'ottone cromato. A passare 20 anni in Chivi non succede niente. Andà bene, vediamo se Capri è rientrato, attenzione Capri, se ci sei batte un colpo. E già ti ascolto, Santiago 3, Santiago 3 e Radio 2. Un po' passivo ti ascolto. Non inizi di amore che antenna beh, te lo dirò sempre, metti questa antenna come si deve. Cappa, quanti fatti? E arrivi abbastanza bene, confronta all'altro apparecchio che chiamo di oggi sempre, il segnale più o meno è quello. A Calaus. Ero furiero, perché sto andando e tornando, capito? E cosa c'è, Picciarella? No, negativo. Picciarella? Avanti si scende nei camari di mezzo, carissimo Falchetto, fai bravo. Scusami. Hai detto il porcetto che si è mangiato oggi. Già. Sembra se il porcettino sta andando in fermentazione. Guarda che adesso mi bevo l'acqua di Nostra Signora di Lourdes e ti a Santa Reggio, Papà capa. Beh, gli alcolizzati sono a frequenza, anche l'unica che sono io, tutti gli altri alcolizzati. Tu, e perché io, Pierpaolo, siamo tutti astini. Fluorano bevo, chi è che l'ha detto che bevo? Anche se appartengo a una categoria di ubriaconi. Io non sono astini. Fluorano. No, non beve niente Gianni, neanche io. T'ha fatto la VSL con il telefono a volte, figurati Gianni. Anche noi siamo astemi, quando non ce n'è non viviamo. Cava cava. Non viviamo. La parroccia. Adesso mi faccio un bel acqua di nudi. Dai. Quando fai così ti temo io. Ma come facciamo a preso il caffè alla faccia di chi non vuole? Se ti andai, però se non vuoi piatto come si fa con i piedi? No. E non ho bevuto il caffè solo io. Quell'ubriaco tragico di coso, di Falchetto mi ha detto ci beve l'acqua a bitte. Falchetto cosa va, vino o birra? Vino. Natalino? No, Natalino non mi è venuto. Lo meno, da quando lo conosco io che una vita non ha mai bevuto. La ragazza magari qualche sbrudetta magari ce l'ha presa però. A livello di coso. Io se mi ricordo ne ho preso una sola di fronte a Vittorina e basta. Ma vedete non te lo ricordi che da me te ricordo già. No, beveva per dimenticare già. Fanno male però. Sì, ha dimenticato io. Lì con la mano del carabiniere già ce la prendeva la sbronza. Se no, la mano del carabiniere ogni anno me lo regalano un amico. Capri. Come piace l'anice come sciampone? Che cano sei allora già? Mi piace il sciampone, appena quando ogni morte di mio papà, se me la offro, ma cosa mi piace, non è che vado al bar come faceva uno quando lavorava la tele, che si faceva doppia decina la mattina presto, proprio a prima chitto alle 7 di mattina, un doppia decino, poi si fermavano alla stazione, un altro doppia decino, io ma parti buon oggi, e dovevamo andare fuori, e guidava con queste cose in corpo. Andassi. Io so che il cuore non scalda ma brucia. Vabbè, ti brucia anche lo slebeto, così. Tutto ti corrode, stomaco e quanto c'è. Giuseppe invece beve rosso. Cos'è, vampiro? Posso beve rosso Giuseppe. Quanti non più rumore? Lei ne stava parlando di me, ha detto che tu bevi il rosso, vero? Cappa di positivo con le cose, con l'arancio. Bene, arrivi tu, il supportante sta guasto. Il rumore, bum, bum, bum, cosa qui è già? telefono non si sente. Lui per Paolo, Wilco. Oggi è più forte del solito, vabbè, forse perché non c'è QRM, ce n'è non c'è QRM. Vediamo mi fa che Tom. Capri, se c'è ancora, avanti Gianni. Natale vai. Io stavo prendendo un altro caffè, mi stavo prendendo, l'ho sentito riprendere Natalino. Capito? Via. Io quando a piacere la leva di una sardina di Ludde, mi ho preso il caffè. Sicuro? Carissimo! Carissimo Falchetto! Ebbene, non è riuscito nessuno a stasera a prendere l'umacchia. Ah no, no, lascia perdere che... Beh, salite la piove di nuovo, Rimane a Cagliari, a Milano, c'è una bellissima giornata, proprio caldo, mi proprio stava veramente bene. L'abbronzato. Ebbene, raccontaci del Cagliari, raccontaci, sfortunato è stato, oh! Allora che è più sfortunato che il Milan ha giocato al 50% se gioca nel valore 4-5 di gol, non c'è stata storia, ha giocato al primo tempo ma proprio in scioltezza, poi loro hanno avuto qualche occasione alla fine, ma è stato bravo il portiere, ne ha tolto un gol di da allucinante, però potevano fargli almeno 2 o 3 se avessero giocato con un po' più di cattiveria. Kappa, anda bene bene, anda bene bene. Beh, non vedi niente di sasso, ho trovato un bel di gente, amici, gente che conoscevo. Di Cagliaritani, però di Cagliaritani è busso secondo me. Di, tutta la gente che è venuta per vedersi il Milan. Viene da epoche di femmini, tutti, vieni qua, ti faccio la foto. Siamo venuti apposta, ma donne grandi, ragazzine, di tutto. Fissate con questi ragazzi del Milan. Va bene, dai, fate girare che ho sorsiglio, sorsiglio. Sorsiglia, sorsiglia. Carissimo! Permettendo, vedete bene. Ma non li vai in vita. Ah! Ha giudizio che era ma non li vai in vita. Esagerato già. Ehi, capita, gli amici bevei già. Ehi. Però era questo il falchetto tu. Te la faccia... No, gli do la mia, te la faccio vedere. Intanto già le ho trovate dopo tanti anni, Robecca. Però se quando le ho cercate con le QSL, mi ha aperto il cuore quando le ho trovate. Come le ha messo l'antenna piegata, l'ultimo di smicciolo qua davanti, l'ho guardando. È una Grand Prix che era fatta così. La Grand Prix di prima della Lemma era così. Bugiata. Chi è che ha chiamato Roberto? Allora? Ho iniziato con la Grand Prix. E tutti hanno iniziato con la gran... Anzi, i primi hanno iniziato con l'antenna in gomma, o con l'otto dei scupi. Vanti, vera! Buonasera, il capo del Rogero! Ciao, Pierpaolo, ben sentito e cordialità. E rimane impassibile non sbagliare i nominativi, cappa! Oh, mio, via! Non sbaglio, e anche non sbaglio! Gianni, non lo sai come posso salire più al quadrato? Perché? Perché se no c'è qualcuno che va a lamentarsi che lo smalto è 10 canali. Così è. E allora, non è che salgo per i fatti miei per farmi i fatti miei, no. Salgo per splatterarlo. Avagava. E vabbè. Guarda, sono come i dolori che ce li lasciano insieme, ragazzi. Cosa mi pare, come ti si chiama, Pomponi, avanti a fare. Cosa dite? Che è entrato? Su che andiamo? Cosa dite? Pomponio. Su che andiamo? Pomponio, su che andiamo? Su che si urla Pomponio, lascia fare quella colomba. E il cudenta Mussi da ritre, quasi un morso di colomba e un peroncino. Vigliacco, vieni fuori, Pomponius. Carissimo Porchetto. Ui, Pomponio separato, ui ui, lì si ha di pazza, se zio mi ha fatto male a rimanere lì, ui ui. Cocco. Oia, povero spinterogeno, fai che, giù giù. Su che andiamo? Natalino! Sluga! Bravissimo! La buona tra le vita! carabinieri, ambulanza. Su coi feriti. Su, andiamo, su, ga. Su, su, che andiamo, carissimo. La finestra di cucina poco fa e vedo il ragno della tua mantova. Vedi come rulla con questo venticello. Mike 01, dirigetevi verso l'inzetto, c'è un signore in come tirico. Come tirico? E cosa ha detto? È buba di vino ruglio. andiamo? Su che andiamo? Chieto. Carissimo! Carissimo! Carissimo Falchetto! Carissimo Falchetto! Sta frambolando in parita, caro Bobo! Avanti l'ambulanza! Ciao Lucrezia, ben sentito, tanti auguri. E a te e famiglia Gianni. tutto contraccambiato, al 100%, pure qui. Io mi sa che mi alzo perché devo andare in cantina la mia socia a prendermi l'acqua, che non me l'accorto e l'avevo finita. Siamo senza acqua a casa e bisogna che mi veste e vada. Come ne ho preso quando era in offerta 30 casse, piano piano me la sto prendendo dalla cantina della mia socia. Allora ho preso l'Euro Spin, quella roba, no aspetta, vabbè, a 2 litri, 1,3 euro la cassa. La cantina? Ciao, la Tamara. Che la tua accetta, dica. La Tamara, 1,3 euro la bottiglia. Ma no, la cassa che sta a bottiglia. Sì, è buca. Oh, vabbè, che se vai a comprare una bottiglietta te la fanno pagare 1,50 euro nei bar. Non so già. Sì, io. Bene, bene. Ma non lo so, non ho deciso nulla. Probabilmente ce ne siamo avuti, adesso non lo so, vediamo. Se ne abbiamo voglia, perché questi giorni stavo pitturando, spostando la roba, ho cambiato la camera da letto, quindi trovo la casa che sembrava che stessimo accampati. E mi ho finito, devo mettere solo i quadri adesso e poi ho finito tutto. Ma adesso ci siamo rilassati un po' perché eravamo stressati tutti e due. Via. Adesso domani mattina devo, tanto non c'è niente da fare, sono qua, devo ricambiare la ciabatta, no? Praticamente il tastino 01 non accende e non può notare se c'è corrente o no. Adesso domani mattina devo la tua altra, ma per poi io voglio, sono stato che una scuola, diciamo, il pezzo lì è un po' incasinato già, devo rifare tutto da nuovo. C'è un pezzo, diciamo, da entrata qua, dove c'è la, il baracchino, il computer. Perché non qua. Cioè va, sì, però non è a norma. Io ne ho una ricciabatta, lo stesso così che non mi accende l'affare. La cosa dipende dall'interruttore. Non funziona troppo la ciabatta. Non ti accende la ciabatta? Non accende, non funziona, niente. È smontata? Non è cattiva. No, la mia... questa funziona. Quando non accende il tastino, capito? Non si illumina, eh. È un timbico che c'è, che pensano o no. Io penso che sia... l'abbiamo comprata in negozio, vieni con il cluster, con le computer. Questa è un attimo di show. Ma non so cosa sia successo, c'è qualche fusibile o qualche cosa che è partita dentro, oppure è da te accorto. Non lo so, non accende, non funziona nulla. Bisogna consultare una bonita a mettere il salvatore, non funzionava oggi, mamma mia. Che mi sono cambiato le lampadine del Galaxy. E l'altro giorno, dai, l'ho fatto in fretta, sono andato a prendere... coso, come si chiama il filo termostringente, e non ne avevo più, nella radio ho messo il nastro, però poi pensandoci bene col nastro non mi piadria, e l'ho riaperto e l'ho fatto a regola d'arte, ho comprato quella guaina termosaldante, termostringente, come ti si chiama, e così è un lavoro perfetto, poi ho messo la fascettina di lusso, tutto fatto bene. Mi sembra il pignesso, ma come me ne serve già? Poi c'è tre tipi, quello sottile, quello per il cavo del microfono e quello un po' più grosso, per il cavo dell'antenna. Non so come lo prendo. Oh, via. Mamma mia, dai. Guarda, se non va a diventare la volare, entra un po' in bagno, ma ci credi, che è fatto? Ma non va a lunedì. Non si lavora. Era una gara. Noia. Sono sicuro di casato. Noia. Ma non c'è rimasto nessuno già. Sì, ci sono tutti, ma forse stiamo monopolizzando. Avanti Giuseppe per far girare. Vabbè un attimo già. In quella ciabatta ci deve essere un pilota accanto. Non piacere per quello. all'interno della serra. No, aspetta, ti blocco io. Non è che mi accende la luce, poi funzionava lo stesso. Sì, mi fa la lampadina. E poi guarda anche il cinese, tanto la tua buona è già il cinese. No, se quello è buono, se quello è trash. È come ti sto dicendo io, a lui non gli funziona tutto, non è che non gli funziona solo la luce, no, non gli funziona la ciabatta proprio, c'è un filo attaccato lì, tranquillo, tu apri e vedi che c'è il filo attaccato. E ha dei come vitti strani, non ce l'avevo faccio fritte per quelli vitti, non ha dei vitti strani. Bisogna che me ne compri un po' di questi di fricca cavetti, bisogna comprare anche le chiavi a Brugola, ho perso le chiavi a Brugola la Natale. C'ero tutta la serie con l'anello, eccetera, eccetera. Non le trovo più. Che la gara. Meno male ne avevo una scapola che andava bene per il garage, perché se no non potevo fare il lavoro oggi. Mi stavo innervosendo, guarda. Cercando queste cose, non sono riuscito a trovarle, intanto la prendevo troppo tranquillo, mi dovevo nervosire, ho girato. Meno male che poi ho dormito, mi sono rilassato. E scappa. E Pino? Dimmi qua Gianni, giusto una curiosità, ma aspetta un secondo, eh. Mara, come succede Gianni? Bene. Mi sento strano in questo microfono qua, cioè altoparlante qua. Con l'eco sì, con un po' di eco leggermente, ma va benissimo. Stai usando l'esse? No, ho sistemato un altro apparecchio, Gianni. Dammi un attimino veloce e un segnale con questo. Ti ricordi quello che mi hai dato poco fa? No, erano 9:25. Dai questo per gentilezza. Sembra sciogli. Preciso? K di positivo, dai. Ho fatto una saldatorina in questo, veloce, adesso richiudo tutto. Sui combinati, Giuseppe, cosa stai combinando, Archimede? C'è sempre quell'allungatore con l'Inland e sempre con la taglia di quei trettini che si sono staccati. Pagappa. Un secondo solo. Pagappa. Giuseppe, come sto dicendo col cazzi? Benissimo. Ma adesso ho tolto l'eco, L'eco si sentiva? Sì, aveva appena di eco, andava bene. Però anche così è perfetta. È meglio, è un brivido. Ma il Galaxy è questo, là. Ottimo e abbondante. Sei quasi a fondo scala qui. E la radio è Super 5. C'era gara. Oiaia. Su che andiamo. Che ci è rimasto? Luca, riprenditela tu. Avanti Vela. Ehi capo, arrivo la sera. Ari ciao. Capo. Bene, sono andato io, Giuseppe. Capo di positivo, nel segnale e nella radio. Capo. Sei a piedi di 9:40 qui, Addirittura 9:40. Poco fa me l'ha dato proprio in pieno, Sempre 9:40, Il primo pico me l'ha dato 9:40. Ma adesso no, però. Aspetta un secondo, Pierpaolo, mi sono dovuto allontanare un attimo perché c'è Veronica che mi prende, gli era un bravo. Hai adesso, Pierpaolo? 1:03, 1:03. 9:30 con picchi di 9:40. E così è sempre 9:40. Beh, diciamo che così è più ripetitivo, Come ripetitivo, il segnale? Sì, è ripetitivo. Cava, allora dai. Perché mi sono cambiato un po' di spezzone, quando ci sentiamo in verticale, Pierpa, e ti devo parlare di questo alimentatore dell'HQ70 della Midland, se si può fare qualcosa, perché ha ripreso a darmi qualche problemuccio. E cosa fa? Fa rumore d'alternata e sicuramente dipende da quei tre cosi che ti avevo detto l'altra volta, no? Come sembrano come tre spezzoni di fil di ferro che vanno a incastrarsi nel circuito stampato. Ti dà rumore di alternata? Kappa, figurati che di birichino me ne alimenta solo uno. E si attacca l'altro, quello che sto modulando adesso, e proprio si sente che si abbassa di tensione, questo non ce la fa. Ma l'alternata dove andrà, sul barattino oppure sul... si sente la musichetta in lui? La sento in lui, e poi qua il pippi non è pulito, e lo fa, senti questo di pippi. Ecco, invece adesso si attacca l'altro e gracchiante come pippe. Ma addirittura, ma se li attaccate al modo giusto? Aspetta un attimo che passo, ci metto un secondo e passo le bananine sull'altro, un attimo solo. Cappa, avanti la taglio. Eia, di nuovo che so. Comunque, bello, di là, no? Una monitor lì bisogna trovare, per quelli che possono andare lì. Cosa bisogna trovare? Una monitor. E cosa si potrebbe usare secondo te? O quella o quella di più su. Però no. E te credo. E vabbè, già ne parliamo in verticale. Ecco. Hai notato differenza? Sì, sottoalimentato. Cappa. Si sente la sottoalimentazione, sì, anche con la voce. Rullatemi. Sì, lo so perché già da quando lo accendo le luci non sono le sue, sono molto più attenuate. E già si sente, non lo sai allora. Cappa. Portamelo. Grazie. solo i tubomi. Controlliamo le stazionarie, qui ce la risolviamo. Nel senso, uno sale con le PD sul tetto, no? E muove la cosa finché non scendono a uno, capito? Una volta scendono a uno, scendi e tirarsi in terra. Adesso sei tu. E allora ti è successo come, non so, tutto perfetto, allora, no? Ti è successo come Massimiliano? Massimiliano è salito a 12 addirittura. Secondo me va bene a 5, dai, secondo me va bene a 5, perché Mario l'ho messa a quasi a 7, però quasi sarà 6 e qualcosa, dai, ed è andata bene. Beh, c'è la mia, io l'ho messa a 7 e non va bene. Se io lo riuscissi a mettere come ho fatto a Mario, quasi 6, allora vedrai che ne scendono per forza. E sono 1,5 ne ho io, sul 40, ti puoi immaginare. A 10 cm vuole, perché la turbo, io ce l'avevo a 10 cm e stazionale 1,1, capito? Dipende da qualcosa che non va bene, è la molla, è troppo stretta la molla a 7, ed è per quello che non va bene. Io ho guardato il signor Rosso, l'ho messa lì, però non va bene, mi danno i segni stazionali di Maria a me. Sì, Natale, io... quelli che ha avuto sempre, l'ho messa sempre a 5 e sono andati sempre bene, sempre, sempre, sempre. Mentre prima segnava, mi diceva anche un manuale, ha messo a 5 cm. Lo metteva, andavano bene. Questa me l'ho messa a 7, l'ho messa a 7 e non va bene. Ecco, quelle male non è a 7, è di meno. E Mario non ne ha tanti, ne ha appena uno. Se io dovessi metterla a 5, vedrai che senz'altro ne scendono e ce n'è 1,1, perlomeno io penso in questo modo. Infatti adesso anch'io ho fatto il bombone, la scendo e la controllo prima di sollevarla, tutto lì, è un macello. Comunque la macchina 5 non era la turbo, io la turbo non l'ho avuta mai e non mi piace, la turbo ho preso sempre la 5, tutto lì. Ok, scusate se vi ho interrotto, riprendete pure, visto che ascolto, sto guardando il film, dai. E io non c'avevo il carro dentro, per quello che me l'ho controllato intero, l'ho messa nel segnale rosso che mi avevamo detto loro, ma non va bene. Perché a parte che mi sembrava troppo stretta la molla, troppo compressa. E così, guarda, vedrai i farani. Perché l'antenna prima di sollevarla completamente bisogna controllarla e noi non abbiamo controllato niente, l'abbiamo piazzata e basta, capito? Invece prima di sollevarla bisogna controllarla, cioè poi almeno dopo sei sicuro la sollevi e non sai più problema di portarla giù di nuovo per un macello, capito? Tutto lì. Ok, bene, bella, riprendi e buon proseguimento, dai. Ciao, domani, ciao, è plus. Ciao, domani se stai chiudendo, c'è un problema. E così, magari da una all'altra io vedo che cambia, è successo anche a quella, evidentemente ultimamente non è che siano così tanto perfette. Perché non sono tutte precise, capito? Vai a un CC e quindi vuole regolare la molla, non c'è nulla a fare. Ah, lo sai cosa ho messo io? Comunque io mi sono capizzato, mi svegli, fratelli. E qualcuna, di lo stilo centrale, è più lunga di qualche centimetro. Te sei accorto, Natalino? No, quello non l'ho misurato. Magari è più lunga e allora mi provoca stazionaria per quello, mi... Massimiliano. E allora vuole essere mica la molla. Non è sul segno rosso, non va bene. Sono Massimiliano, sono Pierpaolo. No, ma io me ne sono accorto misurando qualcosa che come visto che dovevo mettere le fascette dello stilo centrale, io me ne sono accorto che una misurava addirittura 6,67, mentre invece l'altra un'altra misurava 6,63. E quindi una era più lunga e l'altra più corta, per forza allora è logico che c'è stazionaria e la molla non va più in quella posizione, è inutile che lei rimetta nel segno rosso quando non va bene. Ma la mia è più corta, più lunga di quella di Giuseppe e non va bene. Infatti quella di Massimiliano l'ho misurata in tutta la sua lunghezza perché c'è stato un problema all'ultimo pezzo, quello più fine, la punta, che la fascetta non andava bene, sbagliata anche la fascetta addirittura. E allora io ho fatto un radino passante e l'ho misurata come per come erano la posizione, i segni, e la verità è volta tutto ha detto no, non c'è niente, è così. E misurandone un'altra, il risultato che la misura era diversa, addirittura sono 4 centimetri. E in quella lì io mi sono accorto che, per esempio, invece quella di Giuseppe era giusta alla cosa, e l'ho guardato subito. Perché era giusta, magari l'hanno tagliato un pezzo più lungo, non è, quindi l'ha rubata, cioè deve essere che l'hanno tagliata o più lunga o più corta, è logico che mi da farti domani, capito? E allora bisogna vedere la lavola per farla rientrare nel range. Ma infatti io sono stato meravigliato, l'ho detto, cioè pensavo di aver sbagliato qualche cosa nel montaggio, ho detto cavolo, ho sbagliato qualche cosa perché è così lunga. E anche poi ho guardato anche il buio, ma la giunta fa qualcosa, e ho guardato e dava un'altra misura, ha detto che anche se nella ripigliata è una misura, e risultava lo stilo più lungo. Addirittura cosa dicevi, mi sembrava più corta, mi sembrava bombino, stava dicendo, va via. E non so che non sia vero, magari 3-4 centimetri più corta e mi era di stazionare in Baghissu. Ah, non lo so, guarda, ma secondo me non usano la perfezione. Dopo sono sbagli nel tagliare i pezzi, non lo so, però io questa cosa l'ho notata. Infatti ho detto, vuol dire che con queste ultime nuove sono così, infatti il risultato è che il segno rosso che dava 7 centimetri esatti, proprio giusti, e il risultato che dava stazionaria V5. Allora l'abbiamo portata più su a 8 e niente, poi a 9 e niente, 10 e niente, dava sempre stazionare, addirittura ci siamo riusciti a togliersi 1 di stazionaria, perfetta. E così toccherà fare la mia, ma già c'è l'FD qua al portatile e poi da Giulio già mi sento quando mi dite che va bene, cioè quando ve lo dico io che va bene, no? Infatti bisogna fare così, e comunque io non sono potuto salire perché non stavo tanto bene, però ti assicuro che ce l'avevo misurata questa cosa era più lunga, te lo dico io. Quello lì, anche se non si può dire che se ti vorranno errogliare 1-1, se ne vanno. 5 a 10.000 volt, è più semplice, è più tutto. Adesso io me ne scendo quel coso quando fa una bella giornata, che siamo liberi tutti, due salgono sul tetto a mollare la mamola e uno sta sotto per smetterla, no? Un metro buono però mi serve. Sei tu e tu, prima la misuriamo com'è e poi saliamo a fare il lavoretto. Almeno una cosa perfetta e non c'è, a chi non dice anche io, la cucina lì a rompi i miei cattoli. Ma perché funziona lì sul rospetto? Ma diciamo che sì, però c'è variazione nelle misure tra lui e l'accordatore che ho io, e infatti dovrò regolarlo. Non sarebbe meglio prima rosmettarlo, attaccarlo ad un rosmetto, a vedere se dice la verità quello. Eia, è per quello che ti sto dicendo, mi serve un rosmetto come si deve. E allora, se ce la facciamo anche domani, proviamo a salire a vedere se com'è col rosmetto mio. Magari non sta dicendo la verità a me. Thank you. così che si ha un'idea esatta di cosa bisogna fare, dai. Perché c'è una cosa, 7 centimetri, troppo abbassata era la mola, secondo me. Perché io l'ho vista e ho detto, ma strano. Era messa al punto che mi ha detto Giuseppe, al signor Rosso. Ho misurato con le tre, erano 7 centimetri giusti. E così che era, il signor Rosso sono 7 centimetri, cioè, ma non ero, guardi che dice che sono 7 centimetri, perché quello del Massimiliano ci ha scritto, e quello del Rico ci ha scritto lo stesso, però non lo so come stiamo facendo ultimamente queste cose, ma sono una gran cagata, guarda, almeno mettessero la cosa giusta, perfetta, perché quelle cose lì devono andare perfette, non è così al cazzo di cane, cioè, ma ti pare che da un'antenna all'altra devi variare così, io non lo so come devo essere tagliente. Che forse non hanno macchinari automatici, allora le fanno manualmente, capito? Misurano e tagliano, però molte volte sbagliano misura e o sbagliano di lungo più corto un pezzo di un tubo. Thank you. qualche problema per quello. Infatti sto andando della corda a terra io per quel motivo lì. Allora, se no, 44. E che c'è uno che prende il Davide? prima così, ma anche del primo battesimo primario, quando schiaccia mi esce tutta la roba gialla. Tintura di olio metti. Come metto? A mettere tintura di olio. E se deve essere? La tintura di olio, ma guarda, a mercurio cromo mettiti. Guarda che fibrosivo. E allora pisciaci sopra. Ma è un'infezione, Natali. Adesso ci pisci sopra e lo disinfetto. Grazie. un giorno l'ho fatto piangere, cioè l'ho fatto piangere la sorella veramente, perché la sorella Pedro si è seduta a fianco a me in macchina, attacca a piangere il bambino, se non se ne va in pesa, perché lì lo sapevano, ma non era, si è seduta a fianco a me, beh, adesso Manuela viene a fare compagnia a me, attacca a finire il vicino, ci tiene molto in quello. Sì, già lo credo, guai a chi gli ha fatto cambiare la madre della sorella, ma Luca la manda la guida che ci ne guai. Cava, cava. E ne andiamo tutti con la macchina mia, no? Cacca, si vede accompagnata a casa sua, vicino di via Nandano, e ha detto, beh, ma noi la viene con me a farmi compagnia, così almeno non rimango solo, lui è giubbato a Marco. E Manuela si è seduta accanto a me. Come si è seduta? Si è messo a piangere di brutto. Una volta mi si rampava la ricarica, chi mi bloccava l'ascensore, addirittura. Via, che si dando, se tu mi via si incanni, e con il computer ti associava il subizzino. È intelligente. Se le leggi il terzo vengo lì, a chi mi ha detto una bella mi pare. E la distanza per cui ti alzo in alto, e io ti blocco l'ascensore e ti butto alle scale. Visco. Ma che bene, dai, è un bene che i bambini siano visti. È un bene, è un bene. E lui è Luca, è tutto, è visto. Quando mi piace niente, a lui quando piace niente sono due, perché anche a ragione scura ce l'ho io, no? E io li futta, educato, non vuoi, babba, ma gli ha mai detto un d'Artagnan, mi ha detto, ma anche io. A Luca gli diceva d'Artagnan. Luca? E a Luca gli diceva d'Artagnan, gli diceva. Che parlo per sempre? A bisogno, quando mi dico che non mi sento, allora gli diceva d'Artagnan. Tutto che porto via. Oh, dove sei cazzato? funzionare più come ai tempi miei, no? A tempi di qualche altra persona, e prima era metrumita, ma gli associati, e noi riuscì, no? Facciamo amica, cioè vengo io e ti altro in alto, brutto, facci niente, che non sei altro, brutto, ti dico, e tu cosa cambieggia? Cava, cava, cava di roccio, e marito, marito, ve l'ho entrata una oggi. Maria Marzia, è a dirmi, no? E lì si mai la consuocera, magari, forse per quello che non è la sua, magari. Ciao. sì, dai. Ma è migliorato parecchio. Dopo è 40, una radio di 4, eh. Comunque ti ascolto molto, molto bene, molto meglio. Sì, è proprio il M che ha problemi questa cosa. Oh, non capisco che cazzo può avere. Ascolta, il tipo di radio S, sono in diretto. 6G735, no, ecco. Ah, lì C, ma prima andava in AM. Non lo so, a me me l'hanno consegnato che in poche parole usciva proprio in AM, sembrava che era in banda laterale, poi in FM andava in blocco, si può dire che se davo potenza e lui automaticamente non usciva di qua. È stato starato sicuramente, si sentiva le finali lo stesso. Ecco, sicuramente sì. Aspetta che abbasso qua. Aspetta, come ricevi Tore? Non so, cazzo qua spacco tutto, in FM va, sale. Tu come mi ricevi Tore in quella radio, bene? Perfetto, come ricezione va benissimo. Sia l'ho provato in banda, in FM, in AM, sembra centrato. Sicuramente ci avrà qualche problema in AM. Un peccato, sei tutto non si capisce niente. Tipo come, prendiamo l'esempio del Kenwood, no, del 440, a seconda un momento si usi, idem, tutto spostato, sembra, ma c'è troppo carico e fa quel gioco lì. Io sto usando 140 adesso. Oh, ma Luca, che cosa sta usando? Va bene mandare a operare in FM, pompando proprio, perché qua dovrebbe arrivare sparato in FM. È copiato Natalino, dove? Ho sentito un po' bassa Natalino, col primo amplificatore si aveva rotto. Io devo calcolare che io sono in una zona molto bassa qui, hai capito? Non è che sono a livelli di Gianni, prima ci volevo più bene, magari già Natalino è anche un po' vecchia, capito? Però stazionale non ne ho. Stazionale non ne ho niente. Dove? Ma che ti sono? Quando ti arrivo in FM a te, nelle tue coordinate? Dove che ti sei, Marco? Ed è buona? 5. Va pagata. Così, magari c'è qualche problema all'apparato, senz'altro, va a tutto da vedere. Vediamo un po', io ho trovato quanti arrivo. Tu sei 9.35 adesso, ti sei abbassato, prima di 40. Tu sei 9, no. Luca, quanto gli arrivo io? Come mai allora Natalino a me mi sentiva sempre bene, centrato. Prima, adesso mi dice che non sono centrato quando sta usando il baracchino, no? Lui si è centrato a te, tu essendo spostato, è logico che poi sente male a me che sono centrato. No, io non sono spostato niente. A Parigi io sono rimasto a 27.015.00. Perciò il ritmo l'ho usato solo per tore e basta. Già, capito? Vabbè, comunque si sa che sono così le situazioni. Comunque ogni volta che ho parlato con Natalino con 4.40 mi ha detto Gianni è l'unico centrato, l'ha sempre detto. Ehi, ma adesso io ho centrato su Luca, adesso io sono col presidente Lincoln e mi sono centrato su Luca perché io lo so che se tu non ti centri su lui dopo succede un casino, non ci sentiamo l'altro, capito? Perché dicevo di centrarvi su di me per sentirvi tutti bene, perché eravamo così, eravamo tutti sulla stessa frequenza, capito Aisha? E quello è il discorso, io mi sono centrato su Luca, perché è Luca che ha un apparecchio professionale, diciamo. Io non so come riuscì, già lo so, perché l'ho avuto anche prima di Luca l'apparecchio, quell'apparecchio lì, quindi già lo conosci. Solo che quegli apparecchi lì si possono regolare sia dal frequenzimetro, sia tu puoi mettere, per dire, anche se la frequenza è sbagliata, gliela puoi mettere giusto dal frequenzimetro, gliela puoi regolare. Quindi bisogna vedere com'è la situazione. Lui gli può segnare 27.015, ma magari è spostato come dico io. No, quello lì se lo attivi solo, se non lo attivi rimane lo re. Tu stai dicendo il RIT. Con il RIT già si può spostare volendo, già lo so, ma lo devi attivare. Perlomeno su me è così. Ma vabbè, io vi saluto là che devo uscire. Ci sentiamo ragazzi, statevi bene. Passate una buona Pasquetta e divertitevi. Altrettanto, ciao già. Natalino appunto 80, però Natalino il discorso che stai facendo tu è valido fino a un certo punto, perché tu in trasmissione non ti puoi spostare, ti centri a Luca in ricezione, ma in trasmissione come ti vai, mica ti puoi spostare di cosa, in sintonia continua con Baracchino. Baracchino no, giustamente, ma lui mi sentiva bene lo stesso, perché io mi sono centrato a lui, capito? Si può spostare con il califo, Roberto, ma si può spostare. Attenzione. Dipende, certi baracchini la maggior parte non ce l'hanno questo sistema di coso. E non so che se quello di Natalino ce l'ha questo discorso, ma anche se si centra con te e io sono spostato rispetto a lui o Gianni è spostato rispetto a lui, lui parla con te e boh, gli altri li sente tutti spostati, come se tutti esattamente centrati sulla stessa frequenza. E si dovevano centrare tutti su Luca, è quello che sto dicendo io, capito hai, vabbè. Ma io Natalino lo sentivo bene, pure non so Natalino quanto era spostato. Natalino era centratissimo, guarda, se io mi spostavo lo sentivo male. Ho rimesso lì a zero, come era prima, lo sentivo benissimo. Aspetta un attimo, c'è anche Antonio Mamoni, ma non siamo in partita. Tanto ci sei. Io ci sono. Ma riprendi a tu, siamo famiglia di nuovo, già siamo polizemo, non parli mai. Dai, parla, aiuto. Sputa la rosco, va. Andava bene, poi io mi sono buttato. problemi, cioè siamo nelle tolleranze, no? Non succede assolutamente niente, non ti preoccupare, no? Non succede niente. Io il mio l'ho fatto allineare recentemente da Bianconi, perché Guidetti non è al laboratorio, lo rifà Bianconi, come l'ha allineato a me, a Salvatore. Abbiamo fatto le prove insieme e sono perfetti, l'ho provato anche con un'altra persona che ce l'ha allineato e siamo tutti e due allineati perfettamente, ma non succede niente assolutamente. C'è lì una cosa però che forse Natalino non l'ha ribadita: un baracchino in emissione è molto più largo di un apparato professionale, per cui la tolleranza è minore, nel senso ti lo puoi sentire anche lo stesso anche se è spostato, mentre con un K, se sei appena appena spostato, è talmente ristretta come emissione che c'ha dei filtri, è fatta apposta per non disturbare. E infatti, è questo qui il baracchino è stretto, è per quello, anche se sei in AM, io non mi accorgo se uno è fuori, è la mia centrale. Questo qui è un bel stretto, non è come il Galaxy, il President Lincoln, è strettissimo di banda, ed è per quello che io riesco a centrare bene qui in banda laterale, perché se non li sento io, sono tranquillo che sono fuori. Sicuramente è così, ma adesso quel tipo, quell'ottore che stava parlando, l'ultimo passaggio era centrato 27.015.00 quando ha fatto l'ultima prova che poi avete chiuso, io vi stavo ascoltando e lui ci sentiva male la radio, nel senso che era brutta, per essere da Itti stava uscendo malissimo, segnale era forte 9.60, però la radio era scadente, non solo la stessa utilizzando, però poi alla fine era centrata all'inizio, se no era molto molto spostato prima. Ah, Robbe, come mai Natalino è centratissimo a 0.15.00 e lettore a 60? Boh, speriamo tu. No, 9.60 è segnale. Ah, ah, no, tanto è centratissimo in banda laterale. E guarda le bambine che si stanno bisticciando là. Vedi, allora, va. Boh, non con la mia mazza. Attendi. Sono lì contro, Robbe. Senti, prima l'avevo girata lì vero, ma non c'è spazio qua purtroppo, e vabbè, ci va a prendere il mobiletto, eppure si vedrà. Questo qui è stretto stretto, anche una M, cazzo, se sono così grandi, chi si vuole si sposta, che è spostato, me ne accorgo io con il Lincoln, con il Galaxy magari no, per più largo di banda, invece questo è stretto stretto, come una caetta questo, vedi. Cazzo, io sono un anno e si avvisa subito, si non è fuga. E se è fuga, lei ha due, così rimane dentro. Sì, si è fatti, ma lei diceva Mario, è centratissimo la radio, però non ti sentivo male, poi. Questa va bene la radio, perché la usava Claudio. Ma è che la di Claudio, però non è che non una mondezza, perciò non va bene. Va bene, non c'è problema. Io ne sono passati io, non me ne affitto mai, ma come Luca. Pensa che ce l'hanno due radioamatori di continente, questo qui. E lo usano per andare in banda radioamatoriale 10 metri, perché io li ho sentiti sia in 27 che in 10 metri, li ho sentiti tutti e due. E usavano il President Lincoln. Però è una bomba, questo qui è stretto al rilo di banda, ma di per sé non è che è stato toccato, ma è stretto lui proprio. Io se uno è fuori frequenza da me, me ne accorgo, e me lo devo centrare per sentirlo bene. Luca, sono una massa per non te roba, assolutamente. Ti sto dicendo solo che praticamente... Claudio, vedete che non ha, ma c'è più altre cose a posto, perciò non, io perlomeno non ho toccato niente, comunque, io ho poco uso in banda, diciamo che in banda non mi piace, preferisco più la M, non sei sincero, anche se in banda ho pagato, non so, 100, 150, io lo uso in banda laterale perché lo uso per gli ex, capito? Cioè, non uso questo, uso l'altro, no? Però questo ho imparato a usarlo e so che è stretto perché me ne sono accorto di certe persone che erano in AM fuori frequenza e allora giravo il caliper e li centravo per sentirli bene, però sapevo che erano fuori. Invece con il Galaxy, anche se sei fuori, io non me ne accorgo. O con un baracchino tipo quello che c'è in macchina, con quello non te ne accorgi se uno è fuori, no? Invece mi dice, ma la giusti, è stretto, te ne accorgi subito. si nota molto di meno la differenza, Natalia. Se invece sei tra baracchino e professionale, si nota come si chiama, molto di più se sei spostato. Certo, però questo qui è come un professionale, questo che c'ho io, questo che sto usando adesso, è stretto come può essere uno di quelli lì, di quella radio lì. Capito? Infatti a Luca, se è spostato Luca non lo so, perché questo non lo so se era spostato Luca. Però io mi sono centrato su Luca, capito la cosa del discorso? Ma poi lo sai, ma la puoi fare la prova. Tu vai nella radioamatoriale in basso, per dire sui 80 metri, 40 metri, cose del genere. Normalmente trasmette una frequenza fisse, per dire 3780.00, e lì usano apparati super professionali, cioè i C7008 e cose del genere. Te lo dicono continuamente, ti ha parlato, tu ti rendi conto se sei spostato appena appena. Nel 90% dei casi hanno sempre una frequenza pulita, 0.00, non è che si mettono 0.05 o 0.25, si mettono normalmente su frequenze fisse, per dire 3780.00. Tu prova lì e ti rendi conto molte volte se sei spostato. Sì, ma due secondi lo faccio raffreddare, il carometro non è mai in un dibidro, beh, ci parlo meno, ma lo sento quando sto ambulando, dai, e 5 minuti di bianco e mi sposto là in cucina, vediamo cosa dice la pentola, torno subito. Va bene, comunque io sono stato maleducato, non ho salutato né a Mario né a Antonio. Ciao a tutti e due, buona Pasqua, anche se è un po' in ritardo. Dai, avanti prima Mario e poi Antonio. Vabbè, buona Pasqua anche a te, buona Pasquetta per domani, gappa gappa, ciao Antonio. Mi hai sentito? Niente, no, mi stavo ascoltando io, poi dici che mi avvicino alla radio a vedere cosa dicono, gappa. Ma di vino bianco o di cosa, Natalia? Non significa niente se sei appena spostato, ci mancherebbe. Non succede proprio niente, è importante comunicare e farsi sentire, perché anche se sei spostato di 40 non succede proprio nulla. E se sei spostato di 10 cosa succede? Cioè, che a 15 ascolti a 16 cosa cambia? Assolutamente, anzi noi l'altro giorno abbiamo fatto proprio le prove a spostarci apposta con lo spitti, trasmettevi per dire su uno e ti ascoltavi sull'altra frequenza. Lo fai apposta proprio per non dar fastidio a nessuno molte volte. Ti ha pagato l'altro giorno, mi sento bene, sia a 27.015 e sia a 27.016 ti ascolto perfettamente bene. E te lo dico perché con questo sono a 15 e con Gala che sono a 16 e mi ascolto bene sia con uno che con l'altro. Bene, ti puoi spostare anche a 0.20, ci ascolti lo stesso. In banda laterale che devi metterti molto vicino. Ah, gappa gappa. Vabbè, io dico il problema è la verità, ci sta pure di funzionare. Ma a me la banda laterale, guarda, se l'avessero eliminata non me la fottiamo proprio nulla, talmente mi piace, proprio è una cosa che a me non mi è mai piaciuta. Se mi parli dell'FM, quella sì, che ti metti mezzo vatto e parli con mezzo mondo, parli pulito, senza correre, né niente, quella sì, ma la banda laterale forse la fanno solo per la lunga distanza, perché con poca potenza ti fai sentire lontano. Ok, vabbè, io vado a vedere se me ne vado a mangiare, dai, sono entrato un attimino, che c'erano da parecchio in radio, poi ho fatto altre cose, comunque saluto a tutti quanti, quelli che sono all'ascolto, ciao Mario, ciao Antonio, Luca e compagnia cantante, ciao ciao, cuore ti da parte mia, poi Mari, se ne voglia ci sentiamo dopo. E io mi accorgo, buona carica, buon tutto, là, che la rivediamo alle prossime. Ciao ciao. Ah, vabbè, ciao, buona cena, buon tutto, là. Avanti, Mariedu. Gappa gappa, e cosa ci vuoi fare? E tu non vai a caricare, Natalia? Sì, infatti, stavo progettando di andare a mettere qualcosa sotto i denti, così dopo potevo entrare tranquillamente a modulare. Gappa gappa. Vabbè, oggi c'è la casa piena di gente, si va alla radio, chissà cosa pensare. No, lo so cosa è successo, Mario. È salito Mario oggi, ma non, siccome era di servizio la moglie, allora non ci salivano oggi, dopo se n'è andato lui. successo che era di servizio alla moglie, allora non è potuto rimanere. E è salito da solo, capito? Ragazza. Andava di sera di servizio alla moglie, quindi non è potuto rimanere, capito? E allora ha detto che sale le mani, anche l'altra mia cognata ce ne scende con Angelo qua. Sono tutti qua domani, capito? Gaffa, gaffa, domani è grande balduria. Cosa ne manca? Ecco qua. Su chi andiamo? E oggi Giuseppe chissà dov'è, magari è inventato dai suoi. A poco fa l'ho sentito, già era a casa sua. Ah, boh, io poco fa non c'ero, io sono rientrato una mezz'oretta fa qui a casa. Rientro. Te la colpa la mia, che sono io che ho detto in poco tempo, e poi io che vado a prenderti e ci facciamo un'escursione, dai. Non ho capito, no. Cos'è che stavi dicendo, Pierpa? Yeah, you tell me so. che quando fate la mia riunione dalla Micorussi di Osso. Ehi, qualcuno, ma non è che ci sono mai andato pazzo io per quelle cose lì. Quando andavo a lavorare al comune io la pigliavo, la frittella sempre, la frittella e il caffè. Perché poi non mi potevo fermare, perché io pausa non me ne facevo mai, perché ero sempre impegnato. Poi, specialmente quest'anno, mi non ti filmata la balla, se no non fa in tempo, e allora mi prendevo il caffè e la pasta e poi andavo a lavorare. Gappa, gappa! Ma ha cambiato, purtroppo non c'è più l'autoparco, la discarica, e quindi il giro era più lungo e un macello. Quindi non mi potevo fermare. Mentre quelli ci facevano la pausa, io stavo rullando. E gappa, per questo mese è di nuovo tutto sull'autoparco, eh? Nel giusto o non giusto? Ma viene meglio l'autoparco, perché sennò secondo il vestito che scende la credanina, ma certo. Ah, quindi riportano tutto su. Sì, sì. E ho visto a domenico l'altro giorno, ma te Mario lì adesso come fai? Dice che stanno cambiando nuovamente tutte le regole, boh. Dice che ci sono i motocarristi che sono disperati, che non sanno più dove andare a buttare la moneta perché lì non le potranno più portare. Addirittura. La gappa. Oiaia. Oiaia. Viene meglio per noi per scaricare, perché ci sono le rampe, mi sale la retromarcia e scarichi. Oiaia. Qualcuno che è manda. Ho spostato di canale magari. Vabbè, là io vado a cucinarmi qualcosina che mangio, pure al limite, se ne voglia ci sentiamo magari. Yeah, d'accordo, dai, buona carica, buon tutto, poi casomai fai chiamata e già sarò qui io, dai. Ciao Massimiliano, ciao Massimiliano, auguri, buona Pasqua, buona Pasquetta per domani, dai. Massimiliano, Massimiliano, Mario. Yeah, perché tu mi... ti ho sentito... leggermente messo male, mi sembrava Massimiliano, scusa, forse a chi l'avrebbe sempre mandato a mangiare qualche cosa. Ah, cavolo, buona carica Natalino, vieni. Quindi se Natalino vi fa fame, mi viene, facendo venire a pizzi di muro a me. Cavolo, e in effetti un po' di carichino bisogna farla, e un muro faccio un po' di fame. E io ho mangiato, a voi. Ecco, per me dai che carico, se adesso chiamo subito lei. E anche io là, ce la riascoltiamo appena ho finito, gara gara. Io scarico, ma non ti scarico. D'accordo. Ce la fai? Natali! Allora portalo, vengo io a cucinarti, cucino un uovo, va. Non mi sveglio. Sempre al cioccolato. Siete dei bastardi, siete dei bastardi, siete. Come voi con il cioccolato? Al burro oppure frisci con l'utero? meglio di me sono lì, però. No, non ho detto niente, non insinuo niente. Poi, comunque c'è chi piace. Io non so se tu fai parte di quelli. No, no, io mi metto primo io in fila. Mi autoaccuso, sono sempre meglio di me. Pagata. Ah, va bene. Ma Massimiliano di Comuglie. No, Massimiliano no. Non c'è venuto oggi Massimiliano al raduno. Ha ha. ma se lo carica, non lo so. Come è con questo apparecchio? Meglio del mio oppure la voce la stessa? Del tuo. Ma guarda, oh, vedi, questo sono vicino di più. Vai, Gavarocci. Stanno a casa e te paghiamo. A Messina su vola, se va scritta. Ma che ho avuto, ragazzi? E allora adesso ascolta, dai. pacchetto. Il pacchetto come lo metto, come lo metto, non si sa. Ma vedi che non c'è posto, non c'è posto, per carità. Thank you. uccide tutto a dopo.